Allora gli israeliti che abitavano la Giudea udirono tutto ciò che Oloferne, comandante in capo di Nabucodonosor, re degli Assiri, aveva fatto ai diversi popoli, come aveva saccheggiato e votato alla distruzione tutti i loro templi, e furono presi da indicibile terrore di quell'uomo e trepidarono per Gerusalemme e il Tempio del Signore, loro Dio. Erano infatti appena ritornati dalla prigionia e tutto il popolo della Giudea si era da poco riunito. Le suppellettili, l'altare e il Tempio erano stati riconsacrati dopo la profanazione. Inviarono pertanto messi in tutto il territorio della Samaria, a Cona, a Bet-Coron, Belmain, Gerico, a Coba, ad Aisora e nella vallata di Salem. Occuparono in anticipo tutte le vette dei monti più alti, cinsero di mura i villaggi che si trovavano su di essi, ammassarono vettovaglie in preparazione alla guerra, giacché da poco erano stati mietuti i loro campi. Poi il sommo sacerdote Joachim, che si trovava in quel periodo di tempo a Gerusalemme, scrisse agli abitanti di Betulia e di Betomestaim, che si trova di fronte a Esdrelon, all'imbocco della pianura vicino a Dotain, ordinando loro di occupare i valichi dei monti, perché di là si entrava nella Giudea. D'altronde, era agevole arrestare gli assalitori, giacché la strettezza del valico permetteva il passaggio a due soli uomini per volta. I figli di Israele fecero come avevano loro ordinato Joachim, sommo sacerdote, e il consiglio degli anziani di tutto il popolo di Israele che risiedevano a Gerusalemme. Inoltre, ogni israelita levò alte grida a Dio con viva insistenza, e tutti si umiliarono con fervida perseveranza. Essi, le loro donne e i bambini, i loro armenti, ogni straniero, mercenario, i loro schiavi, cinsero di sacco i loro fianchi. Ogni israelita, le donne e i bambini che abitavano a Gerusalemme, si prostrarono dinanzi al tempio, cosparsero di cenere le loro teste e dispiegarono i loro vestiti di sacco davanti al Signore. Ricoprirono di sacco anche l'altare e gridarono a una sola voce e insistentemente al Dio di Israele, perché non venissero abbandonati al massacro i loro bambini, le mogli lasciate alla rapina, distrutte le città in loro possesso, profanato il santuario, fatto oggetto del sarcastico scherno dei pagani. Il Signore ascoltò il loro grido e si volse alla loro tribolazione, mentre il popolo continuava a digiunare per molti giorni in tutta la Giudea e a Gerusalemme davanti al santuario del Signore Onnipotente. Il sommo sacerdote Joachim, tutti gli altri sacerdoti che stavano al cospetto del Signore e i ministri del Signore, con i fianchi cinti di sacco, offrivano l'olocausto perpetuo, i sacrifici votivi e le offerte spontanee del popolo. Con i turbanti cosparsi di ceneri, essi invocavano con tutto il fervore il Signore, perché volesse benignamente visitare tutta la casa di Israele.